Allora, buonasera a tutti, una sigla un po' lunga questa sera, una puntata speciale di Altri Suoni, di 451 frammenti sonori, uniti per l'occasione, come ogni tanto succede, da questi microfoni di Città del Capo Radio Metropolitana. Uniamo le forze e con la compagnia dell'ottimo Gino Dal Soler, che rientra ogni tanto, una volta all'anno almeno, in trasmissione, uno dei conduttori storici di questa radio. Quando è stata l'ultima? L'anno scorso, quando abbiamo fatto il crowd rock. Forse però era meno di un anno fa, vero? Spero. Sì, un po' meno. Comunque diciamo sempre come annata, era la stagione scorsa. Uniamo comunque le forze perché dobbiamo parlare di Folk and Drone, che era la specialità di Gino, che aveva una trasmissione apposita. Ah, ma tu ti ricordi addirittura di quando avevo la trasmissione che si chiamava effettivamente Folk and Drones? Vedi? È durata non molto, però è stato un ciclo preciso, una stagione direi almeno. Sì, forse anche due. Anche due. Ma stiamo parlando di almeno 10 anni fa. Hai più memoria di me. E niente, allora abbiamo questa compagnia, purtroppo ci manca la quarta gamba, che salutiamo. Ciao Eliseo. Ciao Eliseo. Ecco qua. Una buona sera anche da Max Macchia, quindi contento e felice, insomma, di avere il giro, di essere anche, insomma, in compagnia del caro Jerry, che comunque vediamo spesso, quindi, come dire, è consuetudine ormai incrociarci nelle serate. Invece Gino, insomma, in queste speciali, come dire, è sempre duopo e porterà, insomma, il suo sapere, il suo peso specifico, quantomeno, no? E salutiamo sì Eliseo, che non può essere qua purtroppo per, insomma, problemi familiari. Un abbraccio quindi a 451 Altri Suoni, insomma, vediamo, insomma, tra qualche tempo di risentirlo qua, insomma. Non è morto, No, sicuramente lo sentiremo. Noi intanto cominciamo, sicuri che lui ci ascolterà, come spero anche molti di voi, su questo argomento un po' particolare, che appunto il Folk and Drone. Spiega tu, che ne hai parlato per tanto tempo, che cos'è il Folk and Drone. Ma guarda, io infatti prima di venire qua ci stavo un po' riflettendo, no? Perché ogni tanto mi sono chiesto se non era un po' azzardato, per esempio, titolare una trasmissione così perentoriamente Folk and Drones, no? In realtà, insomma, qualche dubbio col senno di poi magari mi viene anche, no? Cioè, nel senso che è vero, nasceva più che altro dall'esigenza di giustapporre due termini che sembravano per un certo periodo di tempo confluire bene insieme, cioè i drones, ormai l'abbiamo detto mille volte, insomma, il suono monodico, ripetitivo, ipnotico, trasognato, eccetera. Con il folk, che invece si rifà chiaramente a elementi più tradizionali, quindi una storia corposa, addirittura lontana nel tempo, insomma, se vogliamo. E come le due cose potessero stare insieme, insomma, ce l'ha un po' raccontato il cosiddetto weird folk negli anni della sua gloria, che ormai si parla ormai di veramente oltre un decennio fa, quando tutto un po' iniziò e quando qualcuno ancora sicuramente prima di me coniò appunto questo termine applicandolo al folk. Ti volevamo proprio chiedere una cosa, Gino, rispetto a questa cosa, visto che poi sei autore anche di uno, probabilmente l'unico libro in Italia scritto in italiano, non proprio sul folk and drone, ma comunque sul folk acido, e quindi il folk che travalica la stessa tradizione, no? Appunto, uno dei pochi critici che di fatto, insomma, 10 anni fa, sulle pagine anche di Blow Up, così citiamo anche la rivista per cui scrivi, parlava appunto di folk and drone. La faccenda, insomma, particolare che, insomma, mi colpì all'epoca e tuttora, insomma, penso che sia, insomma, una cosa decisamente importante. E appunto, come sei riuscito a scovare quello che stava nascendo, poi anche abbastanza inaudito? Sì, c'erano stati gli esperimenti degli anni 70, ma molte cose, insomma, di Fei, di altri grandi, insomma, erano un po', come dire, legate più all'avanguardia, un po' perse, insomma, rispetto invece a un percorso, a un trip, se vogliamo, di veramente di nuovo legato al folk, come Spirelli Span e altre formazioni che poi magari dopo sentiremo. Cioè, come hai avuto il contatto con... Ma guarda, tu hai citato non a caso e più che giustamente John Fay, che sicuramente è stato una sorta di Dio me ne scampi, cosa ne penserebbe lui, si rivolterebbe nella tomba probabilmente se adesso cominciamo a dargli l'appellativo di folkster o di Droning Man o chissà quant'altro. Però se io penso ad un disco come Fair Forward Voyager, che uscì esattamente nel 73, quindi un altro anniversario, stiamo parlando di un quarantennale in questo caso, e in quello stesso anno, sempre per la Tacoma, l'etichetta da lui fondata, insomma, eccetera eccetera, uscì anche il Song of the Stallion di Robbie Basho, che fu un altro bel pezzo da 90 di un genere che non potremmo più, sì, che nessuno osò definire strettamente folk all'epoca. Insomma, è vero, si parlava di finger picking, però comunque in ogni caso le scale che loro usavano erano scale aperte, accordature aperte nei suoni delle chitarre, riferimenti ai raga indiani. Insomma, è chiaro, Fay poi usava anche elementi addirittura di musica concreta, se così la vogliamo chiamare, insomma. Per cui però furono due dischi quelli, secondo me, cruciali, e non a caso sono dischi che sono stati poi citatissimi dai musicisti del weird folk degli anni 2000 e anche fine anni 90, perché comunque erano proprio dei flussi di coscienza. Avete presente, Jerry lo conosce molto bene, perché insomma... Sì, sì, erano i primi che andavano al di là di quello che era semplicemente la chitarra folk, forse. Sì, insomma, mi ricordo che ai tempi della Cruz del Sur, insomma, Basho andava piuttosto forte anche da queste parti, insomma, no? Esatto. E perché, insomma, lì, a parte per esempio l'uso di strumenti esotici, insomma, esotici si fa un po' per dire, ma per esempio le tablas combinate con la chitarra che sembrava un sitar ma non era ovviamente un sitar, e quindi, insomma, un'idea di suono che era un'idea di flusso sonoro, insomma, abbastanza infinita, che poteva andare avanti per chissà quanto tempo, e che giusto la facciata di un LP la costringeva a starci dentro, insomma, perché il pezzo di Fair for Voyager durava un'intera facciata, insomma, di John Fay. Per cui adesso non è che voglio far risalire a lì, perché secondo me anche prima c'era stato qualcosa, insomma, elementi del genere si potevano cogliere, per esempio, ai primordi del British folk, quello chiaramente più orientato in senso psichedelico, pensiamo appunto all'Incredible String Band, insomma, l'uso di tutti questi strumenti esotici, o prima tu hai citato giustamente gli Steel Eyes Span, che io andrei a sentire proprio perché per me sono stati veramente un punto di partenza, non tanto nella loro lettura tradizionale, che comunque era bella corposa, insomma, no? Quasi tutti i loro dischi erano praticamente formati da pezzi tradizionali rivisitati in senso elettrico, ma perché nel pezzo che io propongo questa sera, forse come apertura, che è questo When I Was on Horseback, effettivamente, se voi ascoltate bene, le chitarre a quel punto lì non erano più chitarre acustiche, erano chitarre elettriche, era una specie di salmodia che passava lentamente, che cresceva. Il cantato c'era, ma a questo punto c'era all'inizio e poi alla fine, e nell'intermezzo questo lunghissimo flusso appunto di chitarre che ripetevano un ciclo, addirittura. E lì qualcuno ha parlato davvero di drone, insomma, anche se in realtà poi non c'era allora neanche il termine, forse perché nessuno lo usava comunque, no? Ma come ai tempi dei minimalisti nessuno usava il termine drones, loro si chiamavano ripetitivi. Ecco, io direi che qui c'è proprio l'idea di ripetizione. Bene. Che ad un ascolto attento questa idea di ripetizione a un certo punto può essere interpretata anche come una forma drone. Sì, e noi ascoltiamo The Anno, che non mi ricordo. L'album si chiamava, dunque il titolo è lunghissimo, è Ten Man Mop or Mr. Reservoir Butler Rides Again. L'album uscì nel 71, era il loro terzo disco, credo, sì, il loro terzo, perché prima c'era stato Please See the King e prima ancora Ark the Village Voice, e quindi questo fu il loro terzo Bene. Album. Allora andiamo con Steel Eyes Span. When I was on horseback, when I was on horseback, wasn't I pretty? When I was on horseback, wasn't I gay? Wasn't I pretty when I entered Cork City and met with my downfall on the 14th of May? Bene, siamo entrati direi in tema sicuramente con questo lontanissimo brano del 71 degli Steel Eyes Pen, però appunto l'idea è quella di far capire a, in questo particolare genere che queste cose che andavano 40 anni fa hanno una storia che prosegue attualmente adesso in maniera molto efficace, perché ci sono un sacco di artisti contemporanei che si ispirano appunto a John Fair, a Bebe Asho e a questo genere di folk molto appunto continuo, con brani tipo raga molto lunghi, molto lenti, molto avvolgenti, ipnotici, con in più il bonus o il malus, questo poi me lo dite voi, dell'elettronica che quasi tutti un pochino ci mettono, più o meno. Tra l'altro proprio questo pezzo degli Steel Eyes Pen, cioè che non è un pezzo degli Steel Eyes Pen, cioè nel senso che sì, è un pezzo arrangiato da loro, riarrangiato, insomma, un pezzo storico, viene è stato ripreso in maniera ovviamente diversa nel nuovo disco degli Arborea, che tra l'altro esce in aprile. Quindi proprio una novità, un'anticipazione che vi facciamo qui, insomma. Il disco ancora non ce l'ho, però so che hanno inserito, appunto, per dire di quanto determinati pezzi siano stati in qualche modo influenti. Sì, no, la cosa poi un po' che ti chiedevo anche prima, citando insomma il libro di Circle is Unbroken, no? il tuo libro, e, cioè, dove cogli l'inizio, questo recupero e questo nuovo effetto folk, insomma, iniziato più o meno 10 anni fa? Ma guarda, il libro, insomma, tu l'hai sicuramente letto, per cui sai, parte anche piuttosto lontano, addirittura va a scovare le radici appunto negli anni 60, adesso non voglio per forza andare al Newport Festival di Dylan, che imbraccia la chitarra elettrica, che insomma è vero che si parte da lì, però insomma è fuori di dubbio che le radici poi sono quelle, insomma. Sì, ma ti chiedevo più della nuova generazione, cioè di chi ha ripreso appunto dopo anni, insomma, dopo gli anni 80, dove non si sentiva più parlare dici, di folk. Ah, certamente, certamente. Negli anni 90 certamente, era una cosa, insomma, inaudita il folk. Beh, sì, è vero, c'è stato un gap che è durato almeno un decennio, se non di più. Forse insomma, di più, sì, perché direi dal 2000 hanno ricominciato a girare questi gruppi. Già a fine anni 90, per esempio, questo, per dire, questi musicisti molto underground, tipo questo Peter Schön, che ho portato così proprio per dire che comunque degli emeriti sconosciuti erano già avant all'epoca, addirittura già a fine anni 90, per cui però direi che già c'è stato un momento in cui, quando prima citavamo a microfoni spenti gruppi come Coil e come Care 93, che adesso qualcuno inorridisce, no, l'idea di pensare ai Coil come un gruppo folk, in realtà elementi di quella tradizione erano presenti però tardivamente nei Coil, ma non certo tardivamente nei Care 93, sì, che fin dall'87, quando incisero Svastica for Noddy, sì, già conteneva elementi piuttosto forti, e quindi con Earth Cover Earth addirittura si spinsero anche oltre. Copertina che citava tra l'altro l'Incredible String Band, con Thunder Perfect Mind addirittura stilarono una loro precisissima idea di new folk, andando addirittura a scovare la Shirley Collins dal suo rifugio, dove ormai si era ritirata dalle scene, insomma, facendola intervenire nel disco, insomma, cioè, come dire, riportandola in auge, ristampando anche i suoi dischi, cioè un paio di live per la loro etichetta, per cui sicuramente i Care 93 sono stati da questo punto di vista degli ottimi apripista a cavallo tra i due decenni, insomma. E dopodiché loro chiaramente un po' se ne sono anche allontanati, come spesso, come giustamente spesso accade. E nel frattempo però emergeva tutta questa scena, e soprattutto in America, stranamente questa volta, non più in Inghilterra, che però si rifaceva, guarda caso, anche alla scuola inglese, quindi da Joshua Burkett a PJ Six, a Six Organs of Admittance, a Four Sax, Black Forest, Black Sea, insomma adesso ce ne sono tanti altri, insomma. Comunque guarda, non a caso adesso io faccio sentire un disco che è uscito da 2 mesi, perché inizia 2013, da parte di un duo americano, anche se si chiamano Cohen Holcomb e Brandon Underegg, per cui due nomi un po' olandesi mi verrebbe da dire, però loro vivono a New York comunque. Forse loro... sono re a morire della New Amsterdam. E forse, cioè, comunque loro partono da un piano di musica elettronica sperimentale nei loro primi 3 dischi, però questo nuovo disco Centralia, che hanno fatto proprio quest'anno, imbracciano la chitarra elettrica e la chitarra acustica e fanno in mezzo a dei brani di pura elettronica un paio di drone proprio tipici alla Robbie Bush o alla John Fay che dicevamo prima, di chitarre, di queste cascate di note di chitarra finger picking con qualche effetto sotto, e sono veramente sorprendenti perché riescono a modernizzare e a rinfrescare in maniera evidente questo che è questo pseudo genere di cui stiamo parlando questa sera. Per cui ci ascoltiamo da questo Centralia appena uscito dai Mountains, questo Tilt. Thank you. Allora, ne abbiamo parlato tanto e beh, a questo punto secondo me bisogna anche farlo sentire, cosa dici? Il nostro amico John Fay, che questa volta però non ce l'abbiamo da Fair for a Voyager, ma da un album comunque altrettanto importante e famoso come Requiem, in cui c'era questa Dance of the Inhabitants, of the Invisible City of Brandenburg. Titolo misterioso. Come d'altronde tante volte. No, Bladensburg, Bladensburg, chissà, no? Che da non confondere con la porta di Brandenburg. Appunto. E che è un disco, ti ricordi? È un disco che è ancora della fine degli anni 60, infatti, questo. Mi sembra anche a me. Sì, Requiem è uno appunto che esce prima di Fair for a Voyager. Ed è comunque considerato uno dei capolavori di John Fay. E da qui si capisce un po' di che cosa stava parlando e da chi si sono ispirati anche questi ragazzotti moderni. Beh, prima di loro ancora i Gast del Sol. Sì, chiaramente. Thank you. Abbiamo ascoltato Fay, quantomeno un omaggio insomma da parte di 451, altri suoni al grande maestro, e tra l'altro si sentiva anche una cosa piuttosto particolare, da una parte sicuramente il blues delle origini e anche quel suono psichedelico che comunque è importante per tutta la faccenda folk and drone. Esatto, infatti. Eh sì, sì, perché comunque poi Fade, dopo di questo, ne ha fatti di dischi importanti utilizzando sempre questi elementi. Lui era sicuramente un eclettico, ecco perché forse non voleva essere troppo confuso. Però c'è un Fay anche che viene confuso, anche magari a suo dispiacere, però ad esempio dentro Zabriskie Point, dove c'era insomma la creme della psichedelia dell'epoca, certo, Pink Floyd, certo. Grateful Dead. Chiaro. Tra l'altro era un bellissimo pezzo quello. E quindi per non per chiudere il cerchio, perché i cerchi è difficile davvero chiudere in questo caso, no? ma saltando di nuovo nel tempo al 2003, in questo caso chi più discepoli accorati, appassionati direi di Fay dei Pelt, nel loro secondo me massimo stato di gloria, quando incisero questo Pearls from the River. Era proprio il 2003, quindi ricorre un po' il decimo anniversario di questo disco, ed erano in tre e c'era ancora il compianto Jack Rose ovviamente con loro, alla chitarra e il banjo baritono, poi c'era Patrick Best al portacello e al basso e Mike Gangloff al banjo, Esragi tampura, ecco. E questo secondo me è il loro disco insieme ad Ayahuasca che più omaggia la figura di Fay e di Basho insieme, proprio una specie di combinazione dei due, con in più tutto quel flusso chiaramente psichedelico di cui dicevamo prima, legato alla risorgenza del folk dei primi anni 2000, quindi pezzi lunghissimi che sembravano davvero dei raga. Sono solo tre, tant'è vero, i pezzi contenuti in questo disco. E quindi noi ci ascoltiamo l'ultimo, che è Road to Catawba, almeno un frammento dell'ultimo, per darvi un po' un'idea di quel che c'è stato dopo Fay e dopo Basho, anzi un bel po' di anni dopo direi, no? Almeno 30-35 per dire che insomma l'immortalità esiste. Thank you. un po' un peccato sfumare, però se ascoltiamo solo brani di 20 minuti abbiamo già finito la trasmissione. E beh, del resto con i Pelt capitava spesso capita tuttora, insomma. Sì, no, ma poi la maggior parte dei brani che abbiamo stasera in realtà vanno come media 7, 8, 10 minuti, per cui... E beh, anche perché l'idea è quella, l'idea di espansione ci sta dentro pezzi di lungo respiro, insomma. È difficile trovare un pezzo drone, sì, ci sta anche, ma di 2 minuti è dura, è durissima. Anche questi Astrid, che sono un po' la sorpresa, una delle poche sorprese di questa sera, sono un gruppo della Rune Gramophone, per cui etichetta molto attenta alle nuove tendenze, che però non aveva ancora fatto un disco in tema, diciamo così, drone folk, ed è andata a pescare questi due francesi, che sono, credo, non so se l'unico gruppo, uno dei pochissimi gruppi che incidono per la Rune Gramophone, che non sono norvegesi. Sono due francesi, un chitarrista e un batterista, con un violinista che li accompagna, che hanno fatto questo disco molto curioso tra post-rock, ambient, psichedelia e appunto drone folk. Ci mettono dentro un po' di tutto. È un disco molto vario, anche come brani. Ci sono dei brani di 21 minuti, dei brani di 5-6 minuti. Questo qui è un po' una via di mezzo. E vede appunto questa chitarra elettrica e violino in libertà che si perdono in questo delirio psichedelico, tra l'altro con una parte iniziale molto più rumoristica che poi sfocia improvvisamente in questa parte più elettroacustica, proprio così curiosa da ascoltare e da capire che appunto si sta espandendo il movimento anche in Europa, perché appunto questi sono francesi e sono inaspettati, direi. Ascoltiamo. Thank you. Allora, sempre Astrid da High Blues, uscito per la Rune Gramophone nel 2012. Siamo per arrivare alla pausa del GR in questa lunga puntata di Altri Suoni, 451 frammenti sonori uniti, con ospite anche Gino Dal Soler per questa trasmissione dedicata al drone folk. Noi ci salutiamo fra un minuto circa e ci riprendiamo dopo il GR, sempre con queste tematiche, assieme ancora un po' a Gino, spero, ci farà ancora un po' compagnia. Sì, non tantissimo, perché sapete che qua le cenerentole dopo un po'. Ma la scarpa non te la riportiamo. Va bene, a più tardi allora. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, le 23.30, le notizie di Popolare Network. È iniziata in serata con 4 ore di ritardo la riunione straordinaria dell'Eurogruppo che deve trovare un accordo per il salvataggio di Cipro. Il vertice è stato preceduto da una serie di difficili incontri preliminari. Se volete le mie dimissioni, ditelo, avrebbe detto il presidente cipriota Nikos Anastasiades, rivolto ai vertici di UE e FMI. Vi propongo una cosa e la rigettate, ve ne propongo un'altra e la rigettate. Che volete che faccia? Avrebbe sbottato Anastasiades, secondo quanto riportato dai media ciprioti. Se il governo di Nicosia non accetterà un accordo, l'isola potrebbe essere il primo paese ad abbandonare la moneta unica. Il salvataggio prevede 17 miliardi di euro di aiuti, 10 li metterebbe l'Unione, 7 li deve trovare Cipro tassando i grandi depositi sopra i 100.000 euro. Proseguono le consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Pierluigi Bersani. Domani mattina Bersani incontrerà le delegazioni di CGIL, CISL e UIL. Oggi è stata la volta di Confindustria. Per le imprese italiane il tempo sta scadendo, ha detto il Presidente degli Industriali Giorgio Squinzi, che ha chiesto la rapida formazione di un nuovo governo. Bersani nel frattempo deve affrontare una divisione all'interno del Partito Democratico sulla possibilità di un accordo con il PDL. L'ipotesi, sostenuta da alcuni esponenti renziani, è stata bocciata dal segretario, secondo cui qualsiasi nuovo esecutivo non potrà prescindere da un'esigenza di cambiamento. Il presidente del Consiglio incaricato è anche intervenuto per difendere i presidenti di Camera e Senato, Boldrini e Grasso, attaccati duramente da Beppe Grillo. Il leader del Movimento 5 Stelle li aveva definiti foglie di fico del vecchio sistema. Grillo si deve rendere conto che non ha il monopolio del cambiamento, ha ribattuto Bersani. Rimane caotica la situazione nella capitale della Repubblica Centrafricana, Bangui. Questa mattina i ribelli della Seleka hanno conquistato la città mentre il presidente François Bozizé è fuggito all'estero. Fonti locali parlano di razzie e saccheggi di proprietà pubbliche e private, nonostante l'appello alla calma lanciato dai miliziani. La Francia ha inviato un contingente di 350 soldati per proteggere i propri connazionali, mentre la Croce Rossa Internazionale ha chiesto di poter intervenire. L'Unione Africana ha duramente condannato l'azione dei ribelli del Seleka, chiedendo il loro isolamento internazionale e l'adozione di sanzioni. Alta tensione sulle alture del Golan al confine tra Siria e Israele. L'esercito israeliano ha risposto al fuoco proveniente dalla parte siriana colpendo una postazione militare. Non ci sono state vittime, ma il capo di stato maggiore dell'esercito di Tel Aviv ha definito la situazione esplosiva. Intanto crescono le divisioni all'interno dell'opposizione siriana. Il capo della coalizione nazionale, Muaz al-Khatib, oggi ha annunciato le sue dimissioni. Mi dimetto per poter lavorare liberamente. Troppi cercano di impadronirsi della rivoluzione siriana, ha fatto sapere dalla sua pagina Facebook. Il cadavere di un uomo di 46 anni è stato ripescato oggi dalle acque del lago di Como. Il ritrovamento è avvenuto di fronte all'abitato della frazione Onno di Oliveto Lario, in provincia di Lecco. Sul corpo non sono stati rinvenuti segni di traumi o ferite. Gli inquirenti per ora ipotizzano un incidente o il suicidio. Il tempo, le previsioni per domani, nuvoloso con piogge sparse su gran parte della penisola. Temperature in forte diminuzione al nord. 23:34 minuti, per il momento è tutto. L'appuntamento con il giornale radio di Popolare Network per mezzanotte e mezza. Buon proseguimento con i nostri programmi. Popolare Network. Festival L'Altro Suono, Fondazione Teatro Comunale di Modena. Ti aspettiamo dal 4 aprile al 10 maggio per un nuovo viaggio attraverso i generi musicali con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, Uri Kane, Paul Young, Alexander Balanescu e Terry Riley. Festival L'Altro Suono, www.teatrocomunalemodena.it. Abbonamenti a partire da 30 euro. Alla Bolognina si nasconde una porta sempre aperta sul Novecento. Il mercatino del libro. Libri, riviste, cartoline, reparto dedicato a vinili CD, vintage, impianti hi-fi e tutto quello che avevi perso. Mercatino del libro, in via Zampieri 3/2 a Bologna. Seguici su Facebook. Rosso, prezioso, indispensabile come l'aria, come l'acqua. Ne siamo attenti custodi, ma non tutti ne dispongono a sufficienza. Il sangue è elemento vitale. Aiutaci a farlo avere a tutti. Diventa donatore. ADVS, Associazione Donatori Volontari Sangue. Informazioni tutte le mattine allo 051 636 3539. Padiglione 29, Ospedale Sant'Orsola. Bologna ha bisogno di te. Bene, siamo tornati, non è soltanto 451 frammenti sonori, ma è 451 altri suoni, vogliamo chiamarli. Forse prima o poi, se prendiamo l'abitudine ogni tanto, un paio di volte all'anno, di fare queste cose insieme, dovremmo trovare un titolo unico. Facciamo prima. Un instant title. Ma sì, potremmo fare come quei progetti, insomma, musicali, che ogni tanto facciamo una sorta di improvvisazione radicale, tutti quanti, ovviamente, insomma. Sempre con Gino, non si può prescindere da Gino. Infatti. A Gino abbiamo deciso a sua insaputa che deve venire almeno due volte a stagione. Quindi mi dovrete in primavera e in autunno, almeno. Perché d'estate poi la radio chiude. Esatto, per cui primavera e autunno almeno una volta per stagione deve venire. Anche perché, insomma, oltre a essere un'ottima penna, è anche un ottimo speaker radiofonico, esatto. Molto allusivo, che quanto dire. Ha perso ormai l'abitudine, quindi che ne so. No, mi sembra che sei la confidenza ancora col microfono. No, sei ancora in forma. Allora, stavamo parlando degli unici francesi, alla fine è venuto fuori che c'era un altro gruppo francese che fa del drone folk. Beh sì, esatto, non ho portato nulla con me, però abbiamo scovato subito in rete qualcosina. È il progetto dei Natural Snow Buildings, che poi avevano i loro offshot come Twin Sister Moon e anche come Isengrind. È un duo francese che ha avuto anche un discreto successo, diciamo, nell'ambito più underground, in cui però l'elemento droning, oltre all'elemento folk, era decisamente presente, a volte pendente più verso un aspetto, ed è il caso appunto dei National Snow Buildings, che lavoravano più appunto su cicli, drones continui. Con Twin Sister Moon invece predominava per certi versi l'aspetto acustico, quindi gli arpeggi, le chitarre in cascata e queste atmosfere un po' più, anche se vogliamo, in vena di acid folk, in vecchio stile, insomma. Però poi l'insieme, appunto, almeno per certi periodi ha funzionato piuttosto bene. Citavamo prima quell'album che era Snowbreed Cult, che insomma ha avuto una discreta risonanza anche, diciamo, da queste parti. Il brano che ascoltiamo, che hai deciso, qual è? È sempre appunto da questo progetto che abbiamo appena citato, si chiama Nieve Sacra, ecco. Mm. Appunto. Speriamo che non arrivi. Speriamo che la allontani, esatto. Sull'idea evocativa che stava dietro il suono dei Natural Snow Buildings, che è sempre stato un asso portante del loro suono, insomma, questo rifarsi atmosfere decisamente anche, come potremmo dire, quasi paesaggistiche, quasi bucoliche, però naturali. Sì, esatto, esatto, legati un po' anche ai cicli stagionali, una sorta di Terence Malick, del nord, però diciamo più spostati, però sì, indubbiamente anche tutti i titoli dei loro dischi hanno comunque referenti nella natura, nel paesaggio, in quella dimensione un po' sospesa. come per certi versi lo è stata quella del nostro amico adoratissimo, chi mi conosce lo sa, sì. Sa benissimo che per anni è stata la colonna portante delle tue colonne sonore, non solo, ma in cima alle mie playlist. Insomma, a un certo punto devo aver anche annoiato qualcuno, perché insomma, buona, no? Si dice da queste parti, no? E ovviamente sapete già che stiamo parlando di Ben Chasney, ovvero Six Organs of Admittance, che oggi sicuramente non fa più cose di questo tipo di cui andremo a parlare adesso. Si è spostato decisamente su territori più corposi, più blues, più rock. Diciamo che si diverte molto, o con il suo gruppo, con i Rangda, o... Li avete visti i Rangda dal vivo con lui l'autunno scorso? Sono passati a Bologna, non lo sapeva quasi nessuno, lì al... come si chiama quel posticino simpatico? Chet Baker, è possibile? Chet Baker? Locale jazz, insomma. Quel locale jazz, esatto. E c'erano proprio loro, Chris Corsano, che secondo me è un batterista straordinario, e poi c'era Richard Bishop, che è un altro fluido chitarrista coi fiocchi, e poi ovviamente Ben. Bellissimo concerto, davvero, però tutt'altra cosa, tutt'altro mondo rispetto a quello che è stato appunto Six Organs nel primo periodo della sua vita, ormai secondo, bella lunga. Secondo te, come dire, porterà una sorta di eclissamento di... Ma guarda, io credo che sicuramente mantenere un livello altissimo per lungo tempo non è facile, e però si è sempre mantenuto sui livelli come minimo dignitosi, cioè anche l'ultimo disco, Ascent, aveva comunque nulla di nuovo, ecco, diciamocelo. Non aggiungeva assolutamente nulla a quello che aveva già detto nel tempo, però era un disco gradevole, dignitoso, con alcuni pezzi anche suonati bene, con bravi musicisti insomma intorno a lui, buona produzione, niente da dire. Certo, il Six Organs di Dark Noontide, che è quello che abbiamo in esame in questo momento, era un'altra storia, come quello anche di quello che forse per me rimane il suo disco più bello, e che non so dove sia finito, ma era qua. Daniele, l'abbiamo rubato io e Jerry, in realtà abbiamo fatto un furto in diretta. Dove è finito? No, sarà dentro. Vabbè. E che era poi quello del 2006. E invece Dark Noontide, disco del 2002, credo, sì, esatto. Un Holy Mountains del 2002, considerato, ecco, quello che dicevamo prima, The Sun Awakens, che è forse il mio favorito in assoluto, ma subito dopo gli seguirebbe questo Dark Noontide, che è quello che ha consacrato la figura di Six Organs a livello, diciamo, mondiale, un po' perché aveva suonato al Festival di Terrastock e un po' anche perché si era fatto conoscere in Europa. Per esempio, lo incensarono quelli di Broken Face, la storica rivista, anzi creata da Mats Gustafsson, non il musicista, ma l'altro, il dropout svedese. Che era... tra l'altro c'entra anche molto con la faccenda di cui accennavamo prima, cioè anche loro sono stati, come dire, i primi a far rinascere questa scena, no? Beh, certamente. Broken Face insieme a Dream Magazine furono le autentiche riviste portavoce del settore, insieme anche a Ptolemaic Terrascope, perché bisogna tener conto anche di quello. Però loro due, insomma, peccato che non esistano più, forse non esiste più neanche la scena oggi come scena. Esistono ancora gruppi e musicisti che fanno delle cose, a volte dignitosissime, a volte meno, però ecco, non c'è più quell'esplosione che c'è stata negli anni 2000, e questo va detto, bisogna riconoscerlo, e insomma i famosi corsi e ricorsi storici in questo momento non sono certo favorevoli al cosiddetto folk, eccetera eccetera. Però ecco, Dark Noontide aveva la prerogativa di essere proprio un disco che combinava alla perfezione gli elementi, e quindi c'erano indubbiamente il finger picking di scuola Fay Basho, ma c'era anche proprio il droning intensissimo, per cui Ben Chasney si era ispirato anche alla scuola minimalista e anche al blues, proprio quello più rurale, a quello primordiale, chiaramente rivisitato in chiave psichedelica, in chiave, insomma, fu un disco che fu un bello shock, insomma, quando uscì Dark Noontide. E quindi il brano scelto è Regeneration, appunto, che ci sta anche col titolo. Thank you. Allora, questo era Six Organ of Admittance. E, passiamo adesso a un altro degli alfieri di questo genere, che va più già sullo psichedelico oltre che il folk, sempre rimanendo sull'ipnotico, sul ripetitivo, sul drone, ed è Richard Skelton, un altro dei tuoi cavalli di battaglia, Gino, se non sbaglio. Sì, direi che lo potrei annoverare tra le mie scoperte. È vero, è vero. Credo di essere stato in assoluto il primo in Italia a intervistarlo. Con tutto il folk. Sì, drone, l'hai anche intervistato, infatti. No, però sai, di altri musicisti, insomma, Ben Chasney, ne hanno parlato in tanti, insomma. Con Skelton è un po' più complicato, anche perché decisamente è un mondo più singolare il suo. Sì, anche un personaggio un po' schivo, esatto, molto complesso. Sì, anche. Sì. Tu che hai avuto modo di conoscerlo personalmente? No, personalmente no, perché non è mai venuto, fa molto raramente concerti dal vivo, per cui non, insomma, bisognerebbe andarlo a trovare nei suoi meravigliosi paesaggi del Lancashire, dove vive. E lui è veramente un personaggio legato proprio al territorio, come si diceva, no? Al genius loci di un territorio, di un paesaggio, insomma, a tutte le simbologie, tant'è vero che ne parlavamo prima di questo suo ultimo progetto, almeno per ora l'ultimissimo, che è appunto l'Hymnology, che è praticamente, il CD è solo una parte del contesto, la parte più corposa, è un libro dove praticamente vengono citati tutta una serie di terminologie, simbologie, nomi legati proprio ai fiumi, ai corsi d'acqua, ma addirittura va a pescare linguaggi anche dimenticati. Adesso parte l'inglese, ma il gaelico, il cumbro, questo linguaggio, il linguaggio di Cumbria, che deve essere una regione specifica di quelle terre, ma estremamente circoscritta. Sì, mi sembra che sia, che corrisponda più o meno a una parte del Galles, se non sbaglio. Ecco, quindi estremamente ancora più sottile, ancora più circoscritto. E addirittura lui, non so se avete, credo sull'ultimo The Wire o anche sul penultimo, aveva proprio messo un annuncio. Hai presente quando uno mette gli annunci sul giornale, i messaggi, dove voleva coinvolgere chiunque potesse fornirgli notizie utili o importanti su linguaggi dimenticati legati al contesto di quello che lui stava facendo, insomma, no? E per cui sembra quasi un libro di, è un libro fondamentalmente di poetica, insomma, no? Dove però, ecco, tu metti sul disco, lo ascolti e ti leggi questi fonemi, perché alla fine le parole diventano suono. Ecco, la cosa bella, secondo me interessante, di Skelton, che anche chi non conosce strettamente la lingua inglese, per esempio, può avere dei glimpse, delle visioni di suono leggendo le parole, per esempio, no? E allora il contesto ci sta tutto. Ed è veramente affascinante, insomma, è un musicista, secondo me, che ha ancora probabilmente delle cose interessanti da dire. Sì, sì, tra l'altro nel 2012, che a questo punto ha fatto uscire 3 lavori, di cui uno doppio, per cui un anno molto prolifico. Questo Verse of Bird, da cui ascoltiamo un estratto, è appunto un disco doppio. Sì, esatto, completo. Lui si produce tutto. Adesso c'ha questa, prima era la Sustain Release, adesso si è trasformata in Cobblestone Press. E anche perché adesso lavora anche con questa Autumn Richardson, che è la sua nuova musa, la sua nuova fidanzata, diciamo. La sua storia un po' drammatica l'abbiamo raccontata, no? Che gli morì la fidanzata, la sua prima fidanzata, esatto, in un incidente stradale molti anni fa, e dalla quale, insomma, ha fatto molta fatica a riprendersi, e ha usato la musica proprio come terapia, come autoterapia, insomma. E lui, tra l'altro, mi sembra che faccia tutto da solo nei suoi dischi. Fa tutto da solo, dall'artwork alle copertine, lavora tutto in casa, addirittura fa anche delle cose particolarissime, dei packaging con scatole di legno, in taglie, insomma, delle cosine veramente da artigiano. E suona chitarre, archi. Esatto, ha un suono particolarissimo perché usa un violino, chiaramente, una chitarra che però è quasi sempre usata con l'archetto, quindi ogni tanto si sentono le corde, i glissandi, gli arpeggi, però soprattutto c'è proprio questo uso. E ha una concertina che usa anche per creare un po' come l'armonium, un po' come il, come si chiama, l'accordeon, no? Però in maniera, in maniera sperimentale, chiaramente, non in maniera classica. E quindi alla fine sì, il suono è molto corposo, però parte da elementi acustici, perché che sappia io non ha mai usato elettronica. Sì, o se è, comunque non sono strumenti, ma sono post-processing. Esatto. Il brano molto liquido che ascoltiamo adesso, non a caso si chiama Off the Sea, da questo Verse of Bird. Thank you. Allora, veramente struggente, melanconico, ma molto ricco di feeling questo brano di Richard Skelton, che evoca molto appunto le brume del Lancashire di cui si parlava prima. Però adesso mi sembra che passiamo in altri lidi abbastanza lontani. Oddio, con Richard Youngs magari. Sì, Richard Youngs no, però con Makoto Kawabata sì. Direi di sì. Anche se forse prende un po' più il sopravvento Richard Youngs nel pezzo che andremo a sentire adesso. Sì, perché insomma Makoto Kawabata quando ci dà dentro di suo, insomma, ma su territori più vicini. Tutt'altri. Sì, o al come noi, più al minimalismo. O come vabbè Acid Mother Temple sulla follia psichedelica, grande follia psichedelica anche. Tra l'altro abbiamo avuto modo di vederli insieme Acid Mother Temple a Link qualche anno fa. Sì, no? Sì. Ma anche Kawabata da solo venne a suonare. Come noi, no? Proprio da solo. Mi ricordo che andai a prenderlo alla stazione di Bologna e lo scarrozzai fino al Link. E credo che il giorno dopo lo portai da Underground, il glorioso Underground, quando c'era. Ovviamente provate a immaginare cosa cercava Kawabata Makoto. Cosa cercava? Ma secondo voi cosa può cercare un giapponese? Secondo te Merzbo cosa potrebbe cercare qui in Italia? Secondo me, non so, tipo la Caselli. No. Beh, forse la Caselli non lo so, ma sicuramente tutto quello che riguarda progressive italiano, da Battiato alle Orme, alla PFM, al balletto di bronzo. Vanno pazzi per il prog italiano. Vanno pazzi, ma io quando a Merzbow, che è una persona di una mitezza, di una tranquillità assoluta, una persona che mette pace proprio, cioè a dispetto della musica che fa... E gli chiesi quali erano un po' le sue influenze, le sue passioni musicali, e cominciò, gli si brillarono gli occhi e cominciò a citare appunto, ma non tanto i famosi, proprio cioè, mi ricordo il balletto di bronzo, Battiato ovviamente, e Makoto, anche lui cercava quelle cose lì e ovviamente mi sa che non le ha trovate. Almeno non qui. Non da Underground. Magari trovava i suoi dischi. No? Comunque da questo disco che è del 2001. Sì, probabilmente è l'unico disco fatto insieme, un gioiello. Sì, anche qua di suggestioni di vario tipo. Ed è bello insomma pensare al fatto che anche la musica folclorica giapponese possa, come dire, essere riletta. Probabilmente in questo senso sono stati anche molto meno tradizionali, ma anche più tradizionali i giapponesi. Questo è un po' il loro paradosso, che insomma lo Zen insegna quanto si possa essere dentro ma anche fuori, no? la faccenda è un po' insomma paradossalmente il gioco Zen di Makoto Kawabata, in questo caso con un altro grande visionario come Richard Young, magari un po' più malinconico, un po' più sul folk, quando ogni tanto anche lui dà di matto con l'elettronica, no? Ah beh, sicuramente. Oppure Richard Youngs lo dovremmo mettere nella categoria visionari eclettici. Bene, allora ascoltiamo un estratto da questo disco che non ha titolo, semplicemente i loro due nomi del 2001. Thank you. ipnotico decisamente questo brano. E chi era? Makoto insieme a... Ah no, no, pensavo che eri già passato. No, adesso c'è la tua proposta, sono gli ultimi minuti che ci regali, per cui sei preziosissimo. No, visto che è così ancora non molto conosciuto, anche perché infatti, anche questo, come Skelton, fa tutte produzioni più o meno casalinghe, tirature ridicole, diciamo, l'ultima delle quali 77 copie bruciate la sera stessa in cui le ha messe online, perché un amico ha tentato pure di prenderlo, ma non ce l'ha fatta ad arrivare in tempo. Stiamo parlando di Dave Callahan, detto anche come suo nick, insomma, Agitated Radio Pilot. E lui è parte anche del collettivo degli United Bible Studies, però i progetti secondo me più belli, più interessanti, poi li realizza proprio sotto questo nick, che è appunto Agitated Radio Pilot. E fa sempre queste tirature davvero spartanissime, fatte in casa, artwork sempre disegnato da lui o quasi, e distribuzione ovviamente quella che è, quasi tutta direttamente a richiesta dal suo sito o quel che resta di un eventuale. E suona una miriade di strumenti, davvero tanti. E lui è un grande viaggiatore irlandese, ma potremmo quasi definirlo una sorta di cittadino del mondo, visto che è spesso in Asia, e quindi inevitabilmente anche il suo viaggio, il suo viaggiare, appunto, diventa poi influenza anche per le sue musiche. Quindi, a parte gli strumenti, chitarre acustiche, elettriche, lap steel, organi portativi, field recording, mandolcelli, banjo, miridindam e quant'altro. Cos'è il miridindam? È uno strumento indiano, una percussione, e poi armonica, l'accordeon, insomma tante tante cose, anche elettroniche, perché lui comunque fa anche uso, anche se molto meditato, insomma non eccessivo, di elettronica. E un giorno appunto mi raccontò di come tra le sue influenze più importanti ci sia stato questo viaggio in Asia, soprattutto nei paesi del sud-est asiatico, tipo Laos, Vietnam, quei posti lì, dove ha trovato anche appunto dei suoni. E non stento a credere, perché c'è una tradizione a proposito di droning folk atavica, una tradizione veramente ancestrale, quella strumentale, non solo, ma quella proprio più balinese, ma in quell'area lì proprio c'è una musicalità particolarissima, soprattutto Laos. Sì, soprattutto i cori dei monaci. Esatto, per esempio, ma anche proprio delle musiche più legate alla tradizione folclorica, sì, non necessariamente di tipo spirituale. Anche laica, diciamo, proprio folclorica stretta, dove c'è per esempio quanto un uso di scale che sono simili alle nostre scale, insomma alle scale modali, quindi suoni che evocano, se vuoi, anche i suoni proprio minimalisti, e però parliamo di suoni veramente ancestrali, nel senso che esistono da molto prima che certi termini come drones e minimalismo siano stati inventati. Vabbè, andiamo ad ascoltarci questo pezzo di Agitated Radio Pilot, East of Everything, titolo programmatico, est all'est di qualsiasi cosa. A proposito di... Thank you. Mancano pochi secondi, direi, al GR delle 12:30, per cui dobbiamo fare un'altra pausa, questa volta un po' più lunga, per questa puntata extra straordinaria di Altri Suoni 451 frammenti sonori sul Drone Folk con Gino, che non so se tornerà, con rimarrà con noi dopo il GR. Dubito, io vi saluto già ora, però insomma vi ascolterò andando verso casa. È stata preziosissima la tua collaborazione comunque, anche perché per esempio questo artista qui è stato una bella sorpresa. Sì, no, interessante molto. Però dai, insomma, ci risentiremo da questi microfoni. Assolutamente. Abbastanza presto. Bene, allora vi lasciamo al GR e noi ricominciamo dopo per l'ultima parte, la più cosmica, non si sa. Ma vediamo un po' come gira. Più psichedelico. Io tenterò anche di trattenere Gino, non so però se ci riesco. Nel frattempo lo salutiamo. Nel frattempo ecco una buona nottata. Yeah. La mia proposta di governo è per tutti. Grillo non ha il monopolio del cambiamento. Bersani sfida il leader dei 5 Stelle e respinge l'ipotesi di un accordo con il PDL. Dopo l'incontro con Confindustria, domani le consultazioni con i sindacati. Napolitano insiste, alle istituzioni serve continuità. Notte decisiva per Cipro, in corso la riunione dell'Eurogruppo per il salvataggio di Nicosia. Il presidente Anastasiades attacca UE e FMI. Se volete le mie dimissioni, ditelo. In Italia crescono i laureati disoccupati, più 43% dall'inizio della crisi, 200.000 solo nel 2012. L'Unione Africana condanna il golpe in Centrafrica. I ribelli hanno occupato la capitale Bangui, fuggito all'estero il presidente Bozizé. Siria, si dimette il capo dell'opposizione e cresce la tensione con Israele sulle alture del Golan. Il tempo, le previsioni per domani, nuvoloso con piogge sparse su gran parte della penisola. Temperature in forte diminuzione al nord. Mezzanotte e 31 minuti, il giornale di Popolare Network. Proseguono le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Pierluigi Bersani. Domani mattina Bersani incontrerà le delegazioni di CGIL, CISL e UIL. Oggi è stata la volta di Confindustria. Per le imprese italiane il tempo sta scadendo, ha detto il presidente degli industriali Giorgio Squinzi, che ha chiesto la rapida formazione di un nuovo governo. Bersani nel frattempo sta registrando divisioni all'interno del Partito Democratico sulla possibilità di un accordo con il PDL. L'ipotesi, sostenuta da alcuni esponenti renziani, è stata bocciata dal segretario, secondo cui qualsiasi nuovo esecutivo non potrà prescindere da un'esigenza di cambiamento. Bersani e Renzi in serata si sono chiariti con una telefonata, ma decisiva sarà la direzione del partito prevista per domani. Il presidente del Consiglio incaricato è anche intervenuto per difendere i presidenti di Camera e Senato, Boldrini e Grasso, attaccati duramente da Beppe Grillo. Da Roma, Anna Bredice. Si è chiusa con una telefonata cordiale la giornata di tensione tutta interna al PD, mentre Bersani è impegnato nelle consultazioni dentro al Partito Democratico iniziano ad emergere le due diverse linee per la soluzione della crisi. È stato Fassina a scoprire il velo e puntare il dito contro i renziani che spingerebbero verso un governo con il PDL. Bersani, un po' infastidito dal ritorno della discussione interna, rimanda alle decisioni della direzione, tutto in streaming, sottolinea, e dice di attenersi a queste. In serata la telefonata di Renzi, ma la diversa impostazione per risolvere il rebus del governo rimane. Oggi alle 19 ci sarà una nuova riunione del partito e Bersani capirà quanta parte dei democratici sta con lui in questo momento così delicato. Il suo schema è sempre uguale, due binari, uno di governo, e usa sempre la parola cambiamento, e questo non presuppone l'accordo con il PDL. L'altro è quello delle riforme istituzionali e in questo caso Bersani è disponibile ad un accordo con Berlusconi, ma condizione essenziale che ci sia questo è naturalmente la nascita di un governo, e mercoledì o forse giovedì al Quirinale Bersani dovrà andarci con numeri certi. Poi c'è l'intransigenza di Grillo, che ieri ha fatto un doppio attacco: da una parte l'insulto a tutti coloro che sul suo blog osano criticare la sua linea, dall'altro ha contestato le elezioni di Grasso e Boldrini. Bersani risponde così: bisogna che anche Grillo si renda conto che lui non ha il monopolio del cambiamento. Anzi, continuando a distruggere ogni segno buono di cambiamento, non si sa dove si arriva. Linea allo studio. Giorgio Napolitano oggi è intervenuto alla commemorazione delle stragi nazifasciste delle Fosse Ardeatine e di Sant'Anna di Stazzema. Questo è probabilmente il mio ultimo atto pubblico, ha detto il Presidente della Repubblica. Napolitano ha parlato anche della formazione di un nuovo governo. Bisogna essere fiduciosi per forza, ha dichiarato il Capo dello Stato, alle istituzioni serve continuità. Ma quali scenari sta realmente valutando Napolitano? Emanuele Macaluso, giornalista, scrittore, coetaneo e amico del presidente. Lui vorrebbe fare un governo, ma un governo che abbia la maggioranza. Se non si riesce a fare, bisogna aspettare un presidente della Repubblica che abbia il potere di sciogliere le Camere, perché lui non ce l'ha il potere di sciogliere le Camere. E se si sciolgono le Camere senza modificare la legge, dal momento che ormai i partiti che hanno consensi, sono tre, non più due, al Senato si riproduce la stessa cosa. Napolitano oggi ha detto: bisogna dare continuità alle istituzioni democratiche. È un segnale del fatto che la prima cosa è non tornare al voto senza aver cambiato legge elettorale? Certo, anche se va un po' più sul PD, un po' più giù l'altro, un po' più giù il PD, un po' più su l'altro, si riproduce la stessa situazione. È iniziata in serata con 4 ore di ritardo la riunione straordinaria dell'Eurogruppo che deve trovare un accordo per il salvataggio di Cipro. Il vertice è stato preceduto da una serie di difficili incontri preliminari. Se volete le mie dimissioni, ditelo, avrebbe detto il presidente cipriota Nikos Anastasiades, rivolto ai vertici di UE e FMI. Vi propongo una cosa e la rigettate, ve ne propongo un'altra e la rigettate. Che volete che faccia? Avrebbe sbottato Anastasiades, secondo quanto riportato dai media ciprioti. Se il governo di Nicosia non accetterà un accordo, l'isola potrebbe essere il primo paese ad abbandonare la moneta unica. Il salvataggio prevede 17 miliardi di euro di aiuti. 10 li metterebbe l'Unione, 7 li deve trovare Cipro, tassando i grandi depositi sopra i 100.000 euro. Il governo di Nicosia teme però che questa misura provochi l'esodo degli stranieri dalle sue banche, facendo franare la sua fragile economia. Laurearsi non basta più per trovare un lavoro. Nel 2012, secondo l'Istat, si contano circa 200.000 disoccupati tra gli under 35, in aumento di circa il 28% sul 2011. La crisi colpisce quindi anche i giovani con i titoli di studio più alti. A confronto con il 2008 si registra una crescita quasi del 43%. Andrea Cammelli è direttore di Alma Laurea e spiega così una delle cause della minore occupazione tra i laureati. Il sistema produttivo del nostro paese è in grave difficoltà, utilizza poco e in modo approssimativo quelle che sono le professioni delle data di specializzazione nei confronti dei quelli internazionali, mentre vediamo che soprattutto dopo il periodo di crisi, quindi 2008, la maggior parte dei paesi hanno investito di più nelle professioni d'alta di specializzazione, noi stiamo andando controcorrente, quindi stiamo investendo molto poco e questo ovviamente non aiuta a valorizzare il capitale umano che si forma nelle nostre università. Sono continuate in serata, nonostante il buio, le ricerche di due dispersi nel naufragio di una piccola imbarcazione da pesca avvenuto oggi nel mare davanti a Palermo. Nel pomeriggio i soccorritori avevano recuperato il cadavere del terzo passeggero a bordo, a poche miglia dal porticciolo della Bandita. I tre, trentenni, colleghi di lavoro e con la passione per il mare, come ogni domenica erano andati a pescare insieme. Ancora nessuna ipotesi sui motivi del naufragio. I tre amici erano abbastanza esperti e il tempo buono. Rimane caotica la situazione nella capitale della Repubblica Centrafricana, Bangui. Questa mattina i ribelli del Seleka hanno conquistato la città, mentre il presidente François Bozizé è fuggito all'estero. Fonti locali parlano di razzie e saccheggi di proprietà pubbliche e private, nonostante l'appello alla calma lanciato dai miliziani. La Francia ha inviato un contingente di 350 soldati per proteggere i propri connazionali, mentre la Croce Rossa ha chiesto di poter intervenire. L'Unione Africana ha duramente condannato l'azione dei ribelli del Seleka, chiedendo il loro isolamento internazionale e l'adozione di sanzioni. La situazione in Centrafrica era critica già da diversi mesi. L'epilogo di oggi non è quindi una sorpresa. Raffaele Masto. L'ex presidente François Bozizé avrebbe attraversato il fiume Ubangui e si sarebbe messo in salvo oltre frontiera in Repubblica Democratica del Congo. Avrebbe abbandonato il palazzo presidenziale all'ultimo momento, mentre i soldati del suo esercito mettevano in campo l'ultima debole e inutile resistenza. Le forze armate di Bozizé si erano già praticamente liquefatte nei giorni scorsi. Che in Centrafrica Bozizé non avesse futuro era chiaro già dal gennaio scorso, quando le truppe della coalizione Seleka avevano accettato, sotto la pressione internazionale e dei paesi della regione, di non entrare a Bangui, di lasciare aperta la trattativa e di premere sul presidente perché lasciasse il potere. Bozizé, secondo un classico copione africano, ha invece tenuto duro e oggi è stato spazzato via. Anche il vecchio alleato, la Francia, non ha mosso un dito per salvarlo. Seleka, che in lingua locale significa alleanza, è una coalizione molto eterogenea e rissosa. Ora si tratterà di vedere cosa saranno capaci di esprimere. La posta in gioco è enorme. Il Centrafrica è un paese grande il doppio dell'Italia, con solo 4 milioni di abitanti. È coperto da una foresta pluviale primaria e, oltre al legno pregiato, ha un sottosuolo ricchissimo di materie prime preziose e strategiche. Uno straniero, di cui non è stata ancora resa nota la nazionalità, è stato sequestrato a Lagos, in Nigeria. Lo ha reso noto il consolato degli Stati Uniti. La Farnesina esclude che si tratti di un italiano. In Nigeria i rapimenti di stranieri sono frequenti. Negli ultimi anni molti di loro si sono conclusi nel sangue. Alta tensione sulle alture del Golan al confine tra Siria e Israele. L'esercito israeliano ha risposto al fuoco proveniente dalla parte siriana colpendo una postazione militare. Non ci sono state vittime, ma il capo di stato maggiore dell'esercito di Tel Aviv ha definito la situazione esplosiva. Intanto crescono le divisioni all'interno dell'opposizione siriana. Il capo della coalizione nazionale, Moaz al-Khatib, oggi ha annunciato le sue dimissioni. Farid Adli. Il fronte del Golan siriano torna ad essere caldo. Per ben due volte ieri ci sono stati scambi di sparatorie tra postazioni israeliane e siriane. I soldati di Tel Aviv hanno sparato contro una postazione militare siriana dopo che un mezzo israeliano è stato colpito da proiettili vaganti. Il neo ministro della difesa dello Stato ebraico, Yalon, ha detto che Israele reagirà immediatamente al fuoco proveniente dalla Siria nella zona delle alture del Golan. Sul fronte interno siriano, il presidente della coalizione nazionale, Ahmed al-Khatib, ha presentato le sue dimissioni via internet. Le ragioni della rottura sono, da una parte, la deriva terroristica che ha provocato nell'ultimo atto l'assassinio dell'imam al-Tubi e, dall'altra, la nomina di Hassan Hetto alla carica di premier ombra. Hetto è un imprenditore statunitense di origine siriana, vicino ai fratelli musulmani, ma è assolutamente sconosciuto in Siria e per questo è stato sconfessato dall'ala militare. La sua elezione ha portato anche alle dimissioni del vicepresidente Soher Al-Atassi, unica donna al vertice dell'opposizione siriana. Linea allo studio. Migliaia di persone, 300.000 secondo la polizia, 1.400.000 secondo gli organizzatori, ha manifestato oggi a Parigi contro i matrimoni gay, che stanno per diventare legge in Francia. I promotori dell'imponente manifestazione hanno chiesto che il presidente François Hollande ritiri il disegno di legge per sottoporlo a referendum. Il servizio. 300.000 secondo la polizia, 1.400.000 secondo gli organizzatori. Al di là della battaglia delle cifre, la seconda manifestazione nazionale della destra contro il matrimonio aperto alle coppie omosessuali è stata consistente, per riprendere il termine già usato da Hollande, di fronte al primo appuntamento di piazza della Francia conservatrice e tradizionalista il 13 gennaio scorso. Nel merito, la battaglia a favore del progetto di legge del matrimonio per tutti è vinta o quasi, tanto in Parlamento che nell'opinione, che resta stabilmente favorevole ad oltre il 60% secondo i reiterati sondaggi. Ma la piazza piena di oggi, malgrado appunto una battaglia già irrimediabilmente perduta, è segno della combattività, dell'ostilità e della mobilitazione del popolo di destra contro Hollande e il suo governo. Un'ostilità naturale, certo, che però si alimenta della delusione diffusa tra chi di destra non è, per un presidente socialista che non è riuscito a cambiare il segno della crisi, che continua a gravare sempre sulle classi medie e popolari, mentre il mercato del lusso made in France batte dei record storici di vendite e profitti. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network. Mezzanotte e 43 minuti, per il momento è tutto. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network è per domani mattina alle 6.30. Una buona notte, un buon proseguimento con i nostri programmi da Guido Cozzi. Popolare Network. Festival L'Altro Suono, Fondazione Teatro Comunale di Modena. Ti aspettiamo dal 4 aprile al 10 maggio per un nuovo viaggio attraverso i generi musicali, con Petra Maguni e Ferruccio Spinetti, Uri Kane, Paul Young, Alexander Balanescu e Terry Riley. Festival L'Altro Suono, www.teatrocomunalemodena.it. Abbonamenti a partire da 30 euro. Critical Wine? Eh sì! a Montaretto di Bonassola alla Spezia. Belin a Pasqua. Sabato 30 marzo dalle 18 alle 21 aperitivo critico nei bar e ristoranti di Bonassola. Domenica 31 ore 15 incontro Corsa alla Terra. Ore 17 concerto Banda Rotta Fraudolenta. Lunedì 1 aprile ore 15 incontro dall'Uva al Vino. Ore 16 danze popolari. Degustazione dalle ore 10 alle 21. Info www.montaretto.it. Che fatica, che fatica. Qui è tutto un deserto di false promesse e vane parole. Smettila di trascinarti nei cactus. Con la tessera dell'abbonato di Radio Città del Capo ti trasferisci a Eldorado. Eldorado dell'abbonato. Sconti fino al 20%. Tutti i giorni dell'anno, più di 20 esercizi convenzionati. rcdc.it/Eldorado. La città si chiama. Il tempo in Emilia-Romagna, in collaborazione con Trattoria Baraldi, cucina bolognese e vegetariana, pizza bio cotta nel forno a legna, prodotti a chilometro zero e cortesia fatta in casa. Via del Pratello 40 a Bologna. trattoriabaraldi.it. Lunedì 25 marzo, piove e scende la temperatura, ma le gocce si dovrebbero esaurire a sera. Rientriamo in diretta dai microfoni di Radio Città del Capo a quest'ora dopo il GR con quella che è lo spazio normalmente di 451 frammenti sonori e niente, ci sono ancora io qui che prolungo il mio spazio di altri suoni per questa trasmissione di Drone Folk. Gino non siamo riusciti a trattenerlo, è andato via. E Max sta arrivando e continuiamo allora con questo viaggio tra il folk e la psichedelia. Viriamo un po', magari un po' più sulla psichedelia e meno sul folk, un po' più sull'elettronica, ma comunque sempre con lo stesso spirito. Grazie a Likens, anzi Likens, ovvero sia Robert Audrey Love, che è un chitarrista, nasce come chitarrista rock, poi dopo piano piano nel corso degli anni si è dedicato sempre di più a un genere più psichedelico, sperimentale, e ultimamente ha anche abbandonato in parte questo per dedicarsi anche ad altre cose decisamente più elettroniche, anche sotto il suo nome stesso, oppure come questo lavoro che è uscito nel 2012, Lithio Folk, dove il folk c'è anche nel titolo, si ispira a ballate islandesi ed è fatto con molte voci sovrapposte, la sua voce che diventa uno strumento trattato in maniera artificiale con vari loop e accelerazioni e rallentamenti di voce, più altri strumenti più o meno indefinibili, didgeridoo, archi, sintetizzatori e i loops, il drone che rende il disco assolutamente ipnotico. Likens, Lithio Folk. Thank you. Allora, questo era Robert Audrey Lowe. Notevole la faccenda. Lycans è un folk islandese, in questo caso veramente estraniato, estraniante, decisamente ipnotico, con le sue voci totalmente trattate e qualche altro strumento più o meno indefinibile. Sì, beh, un drone, sì, magari più avvicinato veramente alla drone music, a certi panorami, come dicevi tu, cosmicheggianti, extraterrestri. Infatti ci sta bene la tua proposta subito dopo, perfetta. Beh, sì, un pezzo storico di Taj Mahal Travelers, amatissimi da Julian Cope, che nel suo libro, insomma, sul Giappone psichedelico, insomma, alternativo, addirittura antagonista, dedica grandi pagine a Taj Mahal Travelers, giustamente, che probabilmente insieme a musica elettronica viva, insieme a AMM di Cornelius Cardew, facevano quella sorta di internazionale dell'impro. Certo, Taj Mahal Travelers magari più su un versante psichedelico, seppur insomma i termini di radicalismo improvvisativo c'erano, quindi memory insomma di certo jazz di Derek Bailey, di varie produzioni inglesi di quegli anni, Iskra eccetera, e poi un versante elettronico che attraversavano pure in maniera piuttosto interessante, e questi viaggi soprattutto dedicati a a extra territorialità, visto che si parte da certo Giappone, si arriva veramente probabilmente al cosmo anche qua. Taj Mahal Travelers, quindi dal disco live del 74, dell'agosto del 74, titolato semplicemente così, ancora per continuare questo folk and drone. We'll be right back. Bene, questo è direi anche ancora abbastanza attuale, pur essendo del 74. Eh sì, infatti. Queste atmosfere. Infatti le riprendiamo proprio con un disco che è uscito nel 2012 da parte di un duo inglese che si ispira molto un po' a tutti gli artisti che abbiamo citato adesso. Anche questi vengono citati da Julian Cope, anche questi si rifanno alla tradizione sia inglese che americana di John Fay, oppure del dark folk, e sicuramente Comus. Sicuramente Inns and Ghosts si chiama questo lavoro qui, è decisamente dark, e si basa molto su dei drone in qualche modo basati sulla voce, su un coro molto scuro che viene quasi fuori da una specie di processione, sembra quasi di assistere o di ascoltare un qualche cosa che viene da una processione religiosa di non si sa quale culto misterioso, in maniera molto avvolgente e oscura, che ci immerge in un'atmosfera assolutamente improbabile. Dark drone, sì. Dark folk drone si potrebbe dire. Sì, sì, c'è veramente un po' di tutto, un disco un po' curioso, Inns and Ghosts, ascoltiamo di un pezzo, perché insomma dura molto anche questo, sono 18 minuti, per cui ascoltiamo un piccolo estratto da questo Inns numero 1. Thank you. abbiamo cambiato, non sembra. Abbiamo cambiato, un mixaggio, come dire, dovuto quasi per atmosfere, no? Sì, da un drone folk decisamente oscuro e cupo, quello dei Lost Arbors, a qualcosa di ancora più alieno, forse. Sì, da Double Leopards, formazione veramente molto, molto strana, americana, giro più noise, del noise vicino a Motus, a personaggi, insomma, del giro poi Wolf Eyes, Religious Knife, però stranamente poi vanno a incontrare una sorta di maniera assurdista anche un certo folk, una certa acusticità, seppur trattandola sempre con quasi un rapporto brumoso con il suono, con la materia sonora sempre un po' bistrattata, quasi a voler creare un drone disturbato e disturbante. Questo è un po' la musica di Double Leopards, ormai formazione non esiste più, però insomma ha fatto ottimi dischi negli anni zero. Questo è un disco del 2003, tra l'altro decennale anche di questo disco, visto che insomma qualche decennale questa sera l'abbiamo avuto anche con Six Organ prima, vero? Va bene, ci andiamo appunto ad ascoltare, come dire, ad assaporare, sperando insomma di che non rimane il groppo in gola. No, è più che altro è un'immersione in questa musica. Forse, sì. Thank you. qua siamo sfociati nel puro drone, ci siamo forse un po' allontanati dal folk. E rimane forse un'idea vaga, molto suggestiva. Sì, sono molto trattati, però sono assolutamente ipnotici, sarebbero da lasciarsi immergere, però ormai le mie forze sono allo stremo. Sì, poi stiamo andando anche noi in loop, come dire. Non è che siamo immuni, insomma, dai viaggi veramente extraterrestri di queste musiche. Per cui direi che siamo quasi in chiusura di questa lunga cavalcata nel drone folk. Torniamo un attimo a qualcosa di più rintracciabile nel folk, con un progetto veramente molto curioso da parte di questi che già dal nome sono curiosi, perché si fanno chiamare Dead Rat Orchestra, dunque l'orchestra del topo morto, e che hanno fatto una colonna sonora per un film che si svolge in una delle più estreme isole delle Ebridi nel nord dell'Atlantico, sulla caccia ai gannet, cioè questi uccelli marini un po' protetti in queste popolazioni che vivono ai limiti dell'umano, perché sono veramente spersi nel nulla queste isole, dove ci sono un uomo per 20 pecore, credo. Il rapporto credo che sia quello, e sono vivono ai confini veramente del mondo. Ai confini del mondo in tutti i sensi. E questo documentario della BBC è stato sonorizzato da questo trio inglese, che parte chiaramente da radici celtiche ben precise, proprio perché vuole rispettare quello che è la tradizione di quelle terre, e con uso di strumenti acustici, fondamentalmente violino, chitarra, armonica e un po' di elettronica, ma non tanta, per creare un qualcosa che ci riporta a questo folk decisamente ipnotico da cui siamo partiti all'inizio di questa cavalcata. Un assaggio anche di questo, un disco che meriterebbe forse di essere conosciuto di più, credo che sia veramente una cosa per pochi, comunque per chi ancora ha resistito, un assaggio di questi Dead Rat Orchestra. Bene, il ciclo è completo? una citazione. In effetti qua stavamo lottando per capire... Per come chiudere. Infatti, o Bruce Palmer appunto concludendo il ciclo, no? Oppure... Sì, però appunto, visto che siamo nell'isola di Ara, anzi no, nell'isola Ebridi, allora in effetti ci sta meglio, tornando appunto indietro alle origini, la Thirder Band, perché viene da quelle terre. Sì. Con tanti riferimenti anche esoterici, misteriosi, un gruppo mitico degli anni 70 o fine anni 60. Tra l'altro si può sentire anche nel quell'altro capolavoro misconosciuto, cioè non troppo, insomma, sicuramente non famoso come altri film di Polanski, il Macbeth, dove musicano in maniera stupefacente, veramente stupefacente, un film già di per sé, insomma, che è veramente un viaggio dentro le oscurità psichedeliche della mente, dentro poi un'epica storica assolutamente suggestiva, assolutamente polaschiana in questo senso, il Polanski appunto degli anni 70. E allora le Thirder Band erano uno dei primi gruppi appunto nel fare una specie di folk più sperimentale, meno legato a quello che era la tradizione, anche incrociando magari oltre a simboli alchemici, appunto c'è un disco che si chiama proprio Alchemy, anche le tradizioni orientali e occidentali, l'uso della tabla, insomma diverse citazioni anche da parte dei due, che poi dopo hanno avuto una carriera solista separata, ma che in qualche modo ha continuato la sì, cosa. Tra l'altro poi loro dopo negli anni 80 sono stati proprio riscoperti qua in Italia dalla Materiali Sonori, che hanno sì, Robin si sono Williamson, riformati, tra l'altro ha fatto anche delle cose di tour per la ACM, c'è stato un periodo. E lui erano due polistrumentisti, uno era Williamson, Roger Sweeney, e niente, io direi che chiudiamo appunto il cerchio con questo Thirder Band, che ci riporta proprio in un mondo antichissimo ma ancora moderno, come abbiamo sentito, perché molte delle cose che abbiamo sentito adesso, poi anche questi Dead Rat Orchestra, sono del 2012, per cui è un genere senza tempo, senza luogo, si potrebbe dire. Sì, beh, parte proprio dalla temporalità, è proprio la forza di queste musiche. Tra l'altro il pezzo che andiamo a sentire è dedicato all'acqua, il disco era dedicato ai quattro elementi. E concludiamo appunto con il liquido, forse per questi anni, insomma, no? Anni molto liquidi, come dire. E il ciclo si completa. Il ciclo si completa e ricomincia da capo. Buonanotte da Altesuone 451 Frammenti. Alla prossima. Alla prossima. Ciao.